gocce come lacrime sui vetri. Intanto qui in cucina c'è l'odore del caffè che poi mi guida in camera da te. Sento il silenzio di una notte ormai passata, ma spiegami adesso che cosa sognavi. Io per esempio mi trovavo a guidare tra fiori di seta e onde del mare. Racconto di quel viaggio che ho fatto, pieno di colori e pianeti. Gli angeli danzavano ad un ritmo rallentato. Io stavo su una barca in mezzo al prato. Fermavo il tempo con le bolle di sapone, mentre il sole aspettava la luna. E se domani le tue nuvole vedrò, su quelle dune mi addormenterò. Mi addormenterò. Cosa sognavi? Io per esempio mi